quando è iniziato quello del Critical Wine un po' di tempo fa, e capita spesso adesso durante l'anno che arrivano in azienda a trovarti gente che è passata da questo, in queste esperienze, che cerca, cioè quando vanno a fare un giro, io dico nelle Marche, vabbè sono nelle Marche, loro prendono l'elenco, poi si ricordano questi vini, le aziende che hanno provato e vanno, proprio vanno solamente a cercare questo, solamente, maggiormente a cercare queste cose. Dunque crea questo rapporto che è diretto ancora, oltre al fatto di trovare i prezzi dei vini in questo modo, ma anche proprio di andare direttamente a vederlo sul campo, è come se fossero ancora più motivati. Questa cosa qui io la sto notando e c'è, ed è molto bella. E poi, insomma, è un incontro bellissimo, persone, confronti, vedere sul campo cosa stai facendo, ed è una cosa molto molto interessante.